Franca. Salve, buonasera. Buonasera. Senta, sto vedendo che in cielo ci sono vari aerei che stanno praticamente irrorando delle sostanze in cielo facendo coprire il cielo in una coltre bianca. Ma ne sono proprio tantissimi, vorrei sapere qualcosa al riguardo, se Questo possibile. dov'è? Qua, sui cieli di Lugagnano, Di Lugagnano. che è lo stesso anche da voi, perché da qui si può vedere anche la zona di Villa Franca, è uguale. Praticamente stanno facendo un sacco di disegni in cielo, poi queste scie si allargano e stanno formando una coltre che praticamente copre tutto il cielo. Ho capito, signora. Come? Come si chiama lei? A me personalmente non risulta altre segnalazioni. Adesso sento l'attore di controllo, vediamo un po' se c'è qualche manifestazione in merito. Ecco. Una manifestazione? Non lo so, adesso sentirò io l'attore di controllo, vediamo cosa mi dicono, se c'è qualche manifestazione in atto su quella zona lì. Ecco. Ho capito, no, perché viaggiano anche diciamo molto vicini, Alle che case. non penso sia una cosa normale. Adesso lo segnalo, vediamo cosa mi dicono. Va bene? La ringrazio. Grazie a lei, ci mancherebbe. Arrivederci, arrivederci.